Cominciamo l'attività dei nostri sabati di lavoro del 1982 e quest'anno con un po' di ritardo, perché da una parte tutto è stato direi molto impegnato e provato, dato il convegno che abbiamo fatto in dicembre insieme all'Istituto Europeo di Tizio di Mai sul problema del passaggio dall'economia di guerra all'economia di pace in Italia e in Germania nel primo dopoguerra. Ecco, un convegno che ha posto problemi organizzativi abbastanza complessi e che d'altra parte ci ha dato delle soddisfazioni abbastanza analoghe poi pensavamo a fare febbraio, invece poi per vari motivi non abbiamo fatto. Il 17 aprile ci sarà come tipo del consenso, in generale con la promozione di Bollinger in generale, e poi il problema particolare del momento. Poi abbiamo questo Gambardini, che è qui, e il 7 giugno, ma se voi vi saranno poi invito, c'è l'ultimo sabato di lavoro di quest'anno, che sarà dedicato dal professor Limoff sui problemi del disegnamento sociale nella vita di continuare con lui, insomma, la costruzione dei problemi del disegnamento sociale, a cui già da due anni siamo particolarmente interessati. Come si dice proprio lì, i manifesti delle due settimane di settembre, quindi questo quello della storia moderna su ragioni di Stato e finanze. Quindi il calendario di quest'anno sarà già definito, il ritardo del progetto di nuovo orientamento è ampiamente ricompensato dalla presenza di capitani e dal tema. Non è risolto dire che noi pensiamo che questi sabati, con tutta la nostra attività, al di fuori di schemi congressuali e formalistici, con incontri di giovani ricercatori, con i maestri, con alcuni che hanno qualcosa da dire. E di questi cristiani è uno che ha qualcosa da dire. Quindi credo che tutto è molto bello perché a lui ha subito tutti i nostri lavori. Grazie all'amico Prodi, grazie ai colleghi che sono intervenuti anche dall'estero. E io penso di dividere questo seminario in due parti, grosso modo. Nella prima parte io vorrei pregare gli uditori di seguirmi in una lettura, ma per molti sarà una rilettura, di testi molto noti, molto citati, tradizionalmente citati, e proprio per questo forse, secondo me, cristallizzati in una esegesi che non sempre consente la esatta valutazione e soprattutto la esatta collocazione dei testi medesimi. L'ambito delle mie riflessioni su questi testi va da circa la metà dell'undicesimo secolo alla fine del dodicesimo. I testi che io ho fatto fotocopiare mi saranno distribuiti man mano che nel prosieguo dell'esposizione verranno in discussione. Perché ho scelto questo tema? Ci sono due ragioni fondamentali. Una è di carattere personale e vi pregherei di perdonarmi per questo. Alcuni anni fa, precisamente nel 1964, o giù di lì, non ricordo molto bene, ma intorno ai primi anni 60, io ebbi occasione di presentare, di fare una rassegna, recensione del sesto volume degli studi gregoriani, che allora era ancora diretto da Don Borino. In questa rassegna, recensione, qui, ecco il 64, ricordavo bene, io mi fermavo in modo particolare nel segnalare vari saggi su un saggio che era quello molto noto, o almeno allora pareva molto noto, perché come vedremo poi ci si è dimenticati, di Walter Ullmann, Romanus Pontifex indubitantere ficitur sanctus, dictatus pape 23rd in retrospect and prospect. Questo saggio mi interessava a più di un titolo, intanto perché toccava un testo, quello dei dictatus pape, che per me da moltissimi anni è sempre stato un mistero. E forse da questo seminario qualche piccola luce su questo mistero potrà venire, quello che perlomeno io mi auguro. In secondo luogo, proprio in quegli anni, io mi interessavo particolarmente degli aspetti canonistici, si intende, delle immunità giudiziarie dei vescovi, nel periodo che così si chiama della riforma gregoriana. La conclusione di quella recensione, rassegna, era piuttosto critica nei riguardi dell'Ullmann, come probabilmente sa chi ha avuto occasione di leggere, penso che Merlo probabilmente l'abbia letto. Tuttavia era critica per una serie di motivi che esporrò nel pomeriggio, perché dato che su questi testi esiste un'abbondantissima letteratura storica, io rimanderei al pomeriggio la eventuale discussione della letteratura storica, di cui vedete qualche cosa soltanto. Dicevo, non vi dirò adesso i motivi di dissenso, questi motivi di dissenso verranno esplicitati dalla rilettura del testo. Questa è la ragione personale e iniziale, acuita da l'invio da parte di un illustre maestro che mi onora della sua amicizia, il professor Horst Schurmann, di un estratto di una comunicazione tenuta il 28 novembre 1980 all'Accademia delle Scienze di Göttingen. E il titolo era tale da sollecitare i ricordi di quella cosa che avevo scritto più di 15 anni fa, Über die Heiligkeit des Papstes. Cioè, ritornava, ma allora in forma di Überblick, no? Di schizzo, di linea, no? Un tema che mi era stato caro, e che partiva da usanze protocollari, da prassi protocollari del Vaticano, perché Sua Santità, perché ci si rivolge al Santo Padre, e via dicendo, e tracciava una linea dal Medioevo sino all'epoca moderna. In questa comunicazione non c'era nessun riferimento bibliografico, però per chi avesse avuto a cuore l'argomento, era abbastanza facile leggere tra le righe. L'aspetto che mi interessava era indubbiamente quello relativo alla 23ª proposizione del dictato papale, che forse sarebbe bene. Ecco qua. Ecco, il pezzo che avete, come tutti avrete visto, è la fotocopia dell'edizione degli Status Pate del Caspar, del registro di Gregorio VII. Vi farò avere poi, quando toccheremo questo argomento, anche la fotocopia della edizione di quello che è stato definito un secondo di Status Pate, le Autoritatis Apostolicae Sedis, edite nel Deutsches Reich dal Mordek, ma di questo parleremo dopo. Vorrei subito dire che per me non si tratta di un secondo, ma addirittura di un terzo. Il vero e proprio secondo, questo, chiedo scusa, ma sono preliminari perché poi non debba nascere qualche conclusione. Il vero e proprio secondo di Status Pate è quello che già compariva nell'edizione Caspar e che vedete riprodotto in caso di coincidenza di temi nelle note del Caspar e che è conosciuto generalmente dagli studiosi come di Status di Avrance, perché ritrovato appunto nella biblioteca di Avrance. Comunque, quando distribuiremo la fotocopia delle Autoritatis Apostolicae Sedis, cioè del terzo di Status Pate che è stato ritrovato a Pistoia dal Mordek, avremo i due testi, Avrance e Pistoia, affrontati. Quindi la lettura dell'estratto dell'amico Furman mi aveva stimolato subito a vedere se dal 1964 ad oggi un maestro della canonistica, qual è Furman, avesse così ritenuto di mutare un po' la visione tradizionale, non dirò certo di tutto di Status Pate, ma di questa proposizione in modo particolare. La mia impressione è stata, con gioia, che tutto sommato la linea del professor Furman fosse in sostanza quella che anche a me era parsa fin dal 64. Ma questa comunicazione non si inoltrava in un dibattito, perché doveva avere questo carattere, non poteva essere che questo. E quindi lasciava in sostanza le cose come erano. Come erano rispetto alla bibliografia, però, ferma a Ullmann, perché di alcune notazioni che in merito al Status Pate numero 23 io avevo fatto sin dal 64 e che poi si erano connesse con tutta un'altra serie di osservazioni circa il Papa che, se eletto canonicamente, cioè se ordinato canonicamente, diventa santo. Notazioni che riguardavano non tanto questo aspetto positivo, ma quanto gli aspetti di difesa, di isolamento, diciamo pure di immunità. Tutte queste osservazioni che io ed altri anche eravamo venuti facendo da allora fino ad oggi non trovavano nemmeno nella comunicazione di Furman una menzione, torno a ripetere, comprensibilmente data l'occasione. Così mi sono messo a rivedere un po' questi testi anche con la curiosità, e questa è la seconda ragione della scelta del tema, di vedere se era possibile spiegare un fatto eccezionale all'interno del Dictatus Pate che avete dinanzi. Io credo che tutti quanti abbiate letto almeno una volta questo testo. E quindi potete facilmente ricordare che non entro per ora nella discussione se il Vistate Fate sia l'indice di una collezione canonica o qualche cosa del genere, questa semmai sarà una conclusione. Io non entro quindi in discussione con la tesi di Borino e di altri, di questo ci occuperemo semmai, se avremo tempo e se voi avrete ancora pazienza, nel pomeriggio. Ma dico, scorrendo il Vistate Fate, voi potete notare che sia esso o non sia un testo di natura canonistica, solo per la proposizione 23, che è quella pagina 207, è esplicitata la fonte. Se leggiamo insieme, quod Romanus Pontifex, si canonice fuerit ordinatus, meritis eccetera eccetera, sicitus sanctus, testante sancto Ennodio Papiensi episcopo, e multis sanctis patribus faventibus, sicut in decretis beati sinnati pape contenete. Questo è l'unico caso nei Vistatis Pate, nel 27 Vistatis Pate, continuo, chiedo scusa, quando io dico Vistatis Pate intendo questo, cioè quello romano, quello del registro Vaticano II, quello più noto con questo nome. Voglio anche dire che continuo l'uso tradizionale del singolare, anche se sarebbe più esatto parlare al plurale di Vistatis Pate. Voglio anche fin d'ora richiamare la vostra attenzione su un fatto che Vistatis forse, dopo tutte le lunghe discussioni che sono state fatte, soprattutto dopo la comparsa dell'articolo famosissimo del Blaul, su quello che nel registro di Vaticano II era proprio stesura di Gregorio VII o no. Dico, dopo tutte queste discussioni, io credo che bisogna lasciare a Vistatis un significato più proprio, ma questo sarà un punto di arrivo. Allora, la considerazione che per il testo 23, per la proposizione 23, noi ci trovassimo di fronte a un unicum, mi aveva colpito. Mi aveva colpito anche perché, se voi guardate le autorità apostoliche, se voi guardate le Autoritates Apostolice Tesis nella edizione Mordek, voi vi accorgete che, a differenza di quanto capita per molte altre proposizioni, non c'è un corrispettivo della proposizione 23. Non c'è né nelle Autoritates di Pistoia né in quelle di Avron, cosa che potete verificare facilmente se guardate la nota a pagina 207 che il Caspar ha dedicato appunto alla proposizione 23. Non c'era, sin dall'edizione Caspar, nessun corrispettivo al Vistatis di Avron, e nella edizione Mordek di qualche anno fa, per quello che riguarda invece il Vistatis, diciamo, di Pistoia, quella che è stata chiamata la Italienische Version, quella a sinistra, non c'è un corrispettivo del genere. Quindi la questione della santità legata alla ordinatio canonica compare solo nel più celebre Vistatis Pate. Non solo questo, ma nei vari di status di Avranches di Pistoia, i testi che hanno un preciso riferimento alla loro fonte sono certamente più numerosi. Ecco, se guardate ad esempio a pagina 131, voi vedete che c'è riferimento a Gregorio Magno, a Clemente, a Gelasio, a Stefano, ad Adriano, e tutto questo fa supporre che non la mancanza di una abitudine a citare le fonti negli altri due dictatus pape abbia fatto omettere la proposizione 23. La proposizione 23, in due testi che sono paralleli, si può dire, al dictatus pape, è saltata, e secondo me è saltata deliberatamente. È saltata deliberatamente per una serie di ragioni che vedremo, ma di cui è bene prendere atto sin d'ora. Altra considerazione. Nel dictatus pape 23 si citano due testi, quello di Ennodio e quello di Papa Simmaco. Qui occorre subito intendersi. Ennodio è autore di un libellus pro sinodo, si tratta di una sinodo romana tenuta all'inizio del secolo VI, nella quale Simmaco si trovò in notevoli difficoltà perché accusato, come del resto è noto, su queste accuse ci fermeremo in seguito. Ennodio scrisse il Libellus pro Sinodo, il testo di Ennodio è stato assorbito nella tradizione canonistica con il titolo di Decreta Simmachi, insieme con altri testi. Il testo di Ennodio è comunque un testo autentico, altri testi attribuiti a Papa Simmaco sono delle falsificazioni, come vedremo in seguito. Però questo di Ennodio è certamente autentico. Che sia poi passato come Decreta Simmachi è un fatto abbastanza comune nella tradizione canonistica. Devo dire che già nelle pseudo isidoriane, che noi abbiamo qui nell'edizione che è ancora oggi insomma l'unica disponibile e accettabile, se non si voglia ricorrere a quella della patrologia del Merlin, se noi prendiamo qui i testi dei decreti simmati, vediamo che c'è una corrispondenza precisa, cioè il richiamo esiste, non è un'invenzione. Questo esplicito richiamo a una fonte è un fatto preciso, non è un fatto generico. Aggiungo un'altra considerazione. Le altre 26 proposizioni non hanno riferimento a fonti, questa sì. Se noi pensiamo che esiste sino alle decretali, cioè sino a metà, circa metà del primo terzo del secolo XIII, una mentalità tipica dei canonisti che si è sviluppata in modo particolare nel XII secolo, soprattutto nei decretisti, se noi pensiamo che questa mentalità è portata a sciogliere le difficoltà che nascono dai canoni contrastanti solo con argomenti di diritto positivo, il fatto che in questo unico caso sia menzionata una fonte non può non colpirci. Mi spiego. Moltissime volte, soprattutto nei decretisti, nel secolo XII, dopo Graziano, Noi lo vedremo anche noi, io vi ho preparato una serie di almeno una dozzina di decretisti relativi a questo punto. Beh, noi ci accorgiamo che ci sono delle cruces interpretative che non sono mai risolte o sono rarissimamente risolte mediante il ricorso a un metodo deduttivo. Questo sarà opera dei decretalisti, questo nel diritto romano è avvenuto con la grande glossa curtiana, ma in questa fase, diciamo, precedente il grande sviluppo del diritto canonico, in questa fase iniziale, i decretisti si muovono solo sulla base di riferimenti precisi, quello che io intendo per diritto positivo. Bene, l'unico caso di invocazione di un diritto positivo nel dictatus patriae è questo. Perché questo? Questa è una spiegazione che costituisce il senso del seminario. Posso soltanto anticiparvi una considerazione. È fuori di dubbio che il dictatus patriae romano, quello di Gregorio VII, no? Ha una precisione di riferimento che è sfuggita non solo agli studiosi, ma è sfuggita agli stessi avversari di Gregorio VII, penso agli scritti del cardinale Benone e dei suoi compagni, no? Quelli che rifiutarono obbedienza a Gregorio VII dopo il 1080, i quali sono tra i non molti che fanno riferimento a questo testo, ma non parlando del dictatus patriae, parlando invece di un testo sempre di Gregorio VII in cui il contenuto del dictatus patriae 23 era accolto, ma con alcune significative estrapolazioni e con una precisione di riferimento alquanto minore. Per dire che, così come viene letto nel dictatus patriae 23, questo testo costituisce ancora un unico, anche se noi, parlando di Gregorio VII, non possiamo non collegarlo immediatamente alla trattazione più ampia che viene data a questo tema in una lettera famosissima di Gregorio VII, che è la seconda lettera ad Ermanno di Metz e che è la lettera oggetto della polemica dei cardinali scismatici. Qual è la tradizione che ha questo testo? Cioè, guardate, un testo che viene riferito con la fonte fa supporre normalmente che sia accolto, che sia nel solco della tradizione. Ebbene, non c'è nulla nel solco della tradizione se non l'affermazione di Ennodio e l'accoglimento di questa affermazione di Ennodio come decreta sintaxi. Non c'è nulla, anche un esegeta come Loffman, che come sapete ha dedicato un libro al dictatus patriae, qui ho la parte dedicata appunto alla proposizione 23, non è riuscito a trovare precedentemente nessun altro riferimento se non quello indicato qui. Quindi noi possiamo dire sin d'ora che l'indicazione della fonte per il dictatus patriae 23 non è la spia di una tradizione consolidata, è esattamente il contrario. È il bisogno tipico di una mentalità, come ho detto prima, canonistica, di dare un fondamento positivo alle proposizioni canonistiche, proprio perché c'è la coscienza che questa proposizione non ha dietro di sé una tradizione consolidata. Mi direte, ma allora le altre proposizioni che non hanno riferimento preciso alla fonte devono essere intese come proposizioni che invece hanno una tradizione consolidata? Mio Dio, proprio no. Basta pensare che una di queste proposizioni arriva ad affermare che il Papa soltanto può anche condannare, giudicare e condannare uno che sia assente, contro tutta una tradizione che era propria del diritto canonico alto medievale e che era poi stata accolta, recepita dalla tradizione romana. Tutti sanno che nel diritto canonico alto medievale era un principio indiscusso, il nemo absens judicetur. Bene, qui noi troviamo proprio l'affermazione del contrario e nessuna indicazione di fonte. Quindi non voglio dire che siccome le altre proposizioni non hanno indicazioni di fonti, avevano una tradizione consolidata. No, ma questo mi interessa di meno. Quello che invece è indubbio è che una tradizione di qualsiasi tipo, nemmeno in senso negativo, perché il nemo absens judicetur potrebbe essere sì una tradizione di quella proposizione del dictatus pape che prevede invece la possibilità per il Papa di condannare uno in assenza. Potrebbe, dico. Si potrebbe intendere questo, come infatti di solito è stato inteso, cioè tutto il dictatus pape, come una piccola collezione canonica relativa alla persona del Papa e quindi ribaltante una serie di disposizioni che invece riguardavano tutti gli altri membri del clero. Ma questo non ci interessa. Quello che ci interessa invece è proprio il fatto che indubbiamente qui l'attenzione si è voluta concentrare in modo particolare perché non c'era nessuna tradizione. E allora bisognava prevenire delle obiezioni, e infatti le obiezioni vennero subito, dichiarando che quella proposizione aveva un fondamento. Ora, che cosa vuol dire Efficitus Sanctus? Giustamente il Furman ha detto che qui si intende una santità molto particolare. Proprio la difficoltà e l'impossibilità addirittura di intendere la dichiarazione di Pio XXIII come riferita a una santità riconosciuta al vivo, perché l'Efficitus Sanctus è il Papa vivente, felicemente regnante, diremmo noi oggi, no? Ora, è chiaro che nessuna tradizione canonistica, e intendendo santo nel senso proprio, si era mai affermato che si potesse addirittura tributare un culto, come a un santo, a un vivente. C'è un caso che è significativo, quello ricordato dal Noschero Balbulo, siamo quindi in pieno secolo IX, relativo alle pretese di un vescovo, Recone di Strasburgo, che aveva preteso questi onori e che non li aveva avuti e che era stato condannato. Ora, proprio queste difficoltà di intendere santo in senso diciamo corrente, di queste difficoltà si fa la spia, come dicevo, un'attenzione del tutto speciale a questo passo che ricorre appunto anche nella lettera a Ermanno di Metz, registro 8:21. Per quanto siano stati compiuti molti sforzi di ritrovare nell'ambiente dei cosiddetti filo-gregoriani degli accenni che potessero giustificare questa proposizione, mi riferisco soprattutto a Luhlmann, il quale riagganciava la proposizione 23 a formulazioni generali di Pier Damiani, di Umberto di Silva Candida. Beh, per quanto siano stati fatti molti sforzi in questo senso, io devo dire che rimango dell'opinione che la libellistica precedente Gregorio VII non può essere presa come base per una opinio communis che avrebbe giustificato la proposizione 23 stessa. Qui dirò una cosa. Se leggiamo Umberto e Silva Candida versus Simoniacos 3-4, notiamo che la sanctificatio, intesa come opera dello Spirito Santo, non è legata ad alcuna particolare liturgia o ad alcun rituale canonistico, perché la stessa consacrazione, ove esercitata su persona indegna, si muta in dannazione. Ecco, vi prego di tenere presente questo. Proprio quell'Umberto di Silva Candida, al quale molti fanno risalire certe ispirazioni di tipo canonistico di Gregorio VII, beh, proprio Umberto di Silva Candida si pone diametralmente dall'altra parte rispetto a questa dichiarazione. Perché si mette immediatamente dall'altra parte? E questo è uno dei punti, direi, più importanti di quanto io vi sto dicendo e vi dirò. Tutti quanti sapete che l'Adversus Simoniacos si è giunto incompleto. Il libro terzo termina in un punto molto significativo. Il libro terzo infatti termina laddove, contro la procedura canonica, Umberto sostiene che nei riguardi di chi sia stato riconosciuto come simoniaco, non ho bisogno di dirvi che per Umberto il simoniaco è un eretico, no? Allora, nei riguardi di chi sia stato riconosciuto come eretico, non c'è nessuna possibilità di concedere la tradizionale procedura canonica. Voi sapete che soprattutto nei riguardi di vescovi o di arcivescovi, le accuse non potevano essere portate se non a patto di rispondere a tutta una serie di requisiti. Doveva esserci un certo numero di accusatori, gli accusatori dovevano essere non infami, anche se poi più tardi si scoprì che nei casi di accusa di eresia anche in teste infame, cioè che fosse stato già condannato, poteva muovere l'accusa. Ma normalmente un'accusa nei riguardi di un superiore gerarchico era impossibile. Beh, il libro terzo dell'Adversus Simoniacos si interrompe là proprio dove Umberto di Silva Candida, siamo poco più in là della metà del secolo XI, vi prego di ricordare questo fatto perché a distanza poi di un secolo e mezzo circa ritroveremo un atteggiamento analogo, proprio alla fine del libro terzo, come ci è pervenuto, che non è la fine del trattato, Umberto dichiara che nei riguardi di chi sia stato riconosciuto simoniaco, cioè eretico, non valgono le procedure. Tutti possono muovere un'accusa e condannare immediatamente una persona che si sia macchiata di quella colpa, la quale automaticamente, anche se al più alto vertice, Umberto non parla del Papa, parla dei vescovi, al più alto vertice della gerarchia diventa inferiore in tutti i sensi, quindi anche gerarchicamente, rispetto a qualsiasi altro fedele. A questo punto, purtroppo, il libro terzo si è interrotto. Io non posso dirvi perché si sia interrotto, ma sono tanti anni che penso a questa cosa e ho sempre avuto la sensazione che si sia interrotto perché o la prosecuzione avrebbe fatalmente portato a coinvolgere con vescovi e arcivescovi anche il Papa, oppure la prosecuzione sarebbe stata impossibile per tutte le conseguenze che avrebbe avuto. Voglio dire che secondo me l'interruzione, se non è un fatto specifico di volontà deliberata di disperdere quello che veniva dopo, l'interruzione rappresenta un piccolo dramma personale. Ma di questo dopo. Quindi non c'è nessun collegamento, semmai il contrario, con Umberto. E quanto a un passo del capitolo decimo del Liber Gratissimus di Pier Damiani, che distingue tra santità per meriti e santità per ufficio, nel qual caso si è detti santi ma per ufficio ricoperto, beh, io devo dire che qualsiasi tentativo di agganciare il DP 23 a San Pier Damiani naufraga di fronte a una semplice constatazione. San Pier Damiani è stato molto chiaro, molto onesto nei riguardi delle procedure di accusa e più di una volta si è lamentato del fatto che con la procedura canonistica di accusa molti degni di essere deposti dall'ufficio ecclesiastico che ricoprivano finivano col restarci perché le procedure non consentivano agli inferiori di portare un'accusa ai superiori. Ora, di fronte a un testo come la proposizione 23 del Dictatus Pate, la quale in qualche modo isola, ripeterò brevemente una cosa, sanctus, perché ci siamo chiesti cosa vuol dire sanctus. Sanctus qui è nel senso proprio di agios, e cioè di persona distinta, separata. Questo è bene metterlo in evidenza. Cioè, sanctus ha questo significato. Ebbene, dico, di fronte a questa presa di posizione, quel San Pier Damiani che si era congratulato addirittura con Enrico III perché aveva deposto Gregorio VI, non poteva certamente essere lui l'ispiratore. Quindi sgombriamo il campo da queste, diciamo, interpretazioni di collegamento intermedio. Naturalmente, venuto meno un collegamento intermedio, rimane ancora più evidente il carattere del tutto particolare che assume la proposizione 23. Non Umberto, non Pier Damiani. La tesi del dictatus implica la conoscenza diretta dei decreta sinmachi con excerpta che dovevano essere stati preparati per un uso specifico. Questa non è una ipotesi astratta, ingiustificata. Ho visto che a proposito di questa ipotesi lo stesso Mordek ha ritenuto che indubbiamente per il Dictatus Pate 23, che non fa parte del Dictatus di Pistoia, per il Dictatus Pate 23, dicevo, ci dovesse essere stata una speciale attenzione. Questi passi di Ennodio e di Simmaco, diciamo di Ennodio e Simmaco, non avevano avuto una utilizzazione canonistica, erano stati recepiti ma non utilizzati in un dibattito precedentemente. Questo rilievo deve essere quindi attribuito a una circostanza particolare ed è tanto maggiore in quanto all'interno del registro noi non troviamo riferimenti ai cosiddetti falsi simmachiani. Ecco, voglio dire cioè che Gregorio VII si è affidato a un testo che non poteva essere messo in dubbio, posto che si avesse la acribia e la filologia di mettere in dubbio dei testi. Voi sapete quello che è successo con le stelle isidoriane. Anche se fin dal secolo XI nei riguardi delle stelle isidoriane erano stati avanzati molti dubbi. Comunque è significativo che dei vari testi attribuiti a Simmaco il Dictatus Pate 23 faccia riferimento a un testo che è veramente di Ennodio. Non c'entra Simmaco, però è Ennodio riferito a Simmaco. Non ci sono invece riferimenti ai cosiddetti falsi simmatiani. Che cosa sono i falsi simmatiani? Perché questo è un altro punto importante. Papa Simmaco era stato accusato di malversazione ed era stato accusato di violenza carnale. Queste accuse erano state particolarmente gravi, c'era stato appunto un concilio e egli si era liberato dall'accusa, aveva avuto l'appoggio di questo livello di El Novio. Però in vista della difesa di Simmaco, gli ambienti vicino al Papa avevano preparato tutta una serie di falsificazioni costruite con il solito sistema dell'attribuzione a papi molto precedenti Simmaco di alcuni testi. Queste falsificazioni, le più celebri, sono tre. Uno è il cosiddetto Constitutum Silvestri, che è quello che specifica che il Papa non possa essere giudicato da nessuno. Gli altri due sono dei testi di tipo narrativo, sono i cosiddetti Gesta Marcellini e Gesta Sisti. Narrazioni cioè di sinodi in cui era stato accusato un papa e dalle quali appariva che il sinodo non aveva voluto, non aveva potuto, non aveva dovuto pronunziare una sentenza di condanna. Entrerò nello specifico quando incontreremo il Gesta Marcellini. Quello che è certo è che all'interno del registro di Gregorio VII i falsi simmachiani non paiono citati. La santità personale del Papa, allora, rimane un fatto affidato a un testo sicuro, anche se proprio nel Dictatus Pape Romano, alla proposizione 19, noi troviamo la menzione del Constitutum Silvestri, la menzione. Noi troviamo una proposizione che ci rimanda al Constitutum Silvestri. Ecco, se vedete il Dictatus Pape 19, quod animine ipse iudicari dei beati. Bene, questo passo è il Constitutum Silvestri. Non è dichiarato, era un testo larghissimamente noto anche nell'Alto Medioevo, ma è significativo che non sia attribuito al gruppo dei testi simmachiani, non solo, ma che trovandosi in coincidenza, in concomitanza, in accompagnamento con il Dictatus Pape 23 venga a proporre una accoppiata che è quella che interessava evidentemente mettere in evidenza. Il Papa non può essere giudicato da nessuno. Il Papa, se ordinato canonicamente, indubbiamente diventa santo. La seconda proposizione è quasi di rinforzo alla prima, cioè il 23 fa da supporto al 19. Non solo, ma l'aspetto, diciamo, negativo della proposizione 19, il Papa non può essere giudicato, assume un aspetto positivo nel Dictatus Pape 23, il Papa diventa santo. Non solo non può essere giudicato, ma il Papa ordinato canonicamente è santo, cioè santo nel senso di separato. Quindi la santità personale del Papa si coniuga con la sua ingiudicabilità. Proprio questa ingiudicabilità coniugata con lo status di meriti di ufficio, che sono però anche personali, sono anche personali, non sono solo meriti di ufficio. quelli attribuiti da Ennodio e Simmaco, esclude questa coniugazione, ogni possibile collocazione di un precedente per D.P. 23 nel pensiero di San Pier Damiano. Questa, diciamo in breve, la situazione relativa al dictatus patri. D'altra parte, se, come credo che sia stato manifesto sin d'ora, la proposizione 23esima non ha uno scopo di promozione teocratica, almeno dichiaratamente, ma ha uno scopo di difesa procedurale della persona del Papa, significa che è nata in un contesto di dibattito, di discussione. La cosa non ci può stupire. Io non voglio riprendere tutta l'annosa discussione della datazione del dictatus patri, 1075 o 1076. Se anche fosse il 1075, cioè prima della deposizione pronunciata a Worms, è indubbio che sin dal 1075 c'erano delle difficoltà, si preannunziava una burrasca. Si preannunziava una burrasca proprio, e richiamo la vostra attenzione su questo punto, per il fatto che la elezione avvenuta nel 1073 di Gregorio VII era ben lungi dall'essere quella che ci si sarebbe attesi, e su questo verremo dopo. Ora, se tutto questo è vero, noi dobbiamo aspettarci che questi temi siano dibattuti nella liberistica contemporanea e si possano ritrovare. Ebbene, vi ho già detto, nelle due serie di Avranches e di Pistoia non c'è nessun testo che possa essere avvicinato a quello del Dictatus Patri. Non c'è nessuna menzione di Ennodio o di Simmaco. C'è invece una indicazione di fonti, il Concilio di Calcedonia, il Gesta Marcellini, cioè appunto uno dei falsi simmachiani, e via dicendo. Quindi Ennodio è stato ricercato appositamente per una presa di posizione eccezionale di difesa, e questo non stupisce. Simmaco era stato uno dei papi nella storia antica della Chiesa che aveva dovuto subire uno degli attacchi più pesanti, direi all'inizio della storia della Chiesa, la Chiesa ufficiale. In proposito, c'è da fare un'osservazione relativa alla citazione esplicita del testo di Ennodio, che costituisce poi il patto di decreto a Simmaco, nella seconda lettera del Manno di Metz. Che cosa si legge? Qui leggo io, non vi ho fatto la fotocopia, ma è un testo notissimo. Nam quod de apostolica sede prelibasimus, precedentemente aveva ricordato i meriti del tutto particolari della sede romana rispetto ad altre forme di sovranità e di autorità che esistono sulla terra. La sede romana aveva avuto dei papi nei quali moltissimi erano i santi, nessun imperatore o sovrano poteva stare al paragone. Se uno guardava alla serie degli imperatori e dei sovrani, avrebbe a stento trovato qualcuno che poteva essere definito santo. Di contro, invece, alle decine, Gregorio VII parla di oltre un centinaio, in realtà è stato calcolato che al suo tempo non più di 50 potevano essere considerati santi, ma questo non ci interessa, l'esagerazione era nella polemica. Quindi quelle cose che aveva detto prima, quod de apostolica sede prelibarimus, in decretis, beati simmati pape, licet experimento sciamus, sic continetur. Ille, cioè beatus Petrus, perennem meritorum dotem, cum ereditate innocentiae, misit ad posteros. Quis enim sanctum esse dubitet, quem apex tante dignitatis astollit, in quo si desint bona acquisita per meritum, sufficiunt quea loci decessore prestantur. aut enim claros adest fastigia erigit, aut eos quieriguntur illustrat. E questo è proprio il passo di Ennodio che si ritrova tal quale nella epistola, nella seconda epistola ad Ermanno di Metz. Non c'è il ricordo di Ennodio, si ricorda Simmaco, ma questo ha poca importanza. Che cosa vuol dire Ennodio o Simmaco? Beh, vuol dire questo, che i meriti di Pietro sono tali che coloro che da Pietro stesso vengono elevati al massimo dei fastigi della gerarchia, o sono già clari, cioè cospicui, ricchi di doti per conto loro, e allora il fatto di divenire papi, li rende ancora più famosi, oppure, anche se non hanno dei meriti particolari, per il solo fatto di essere elevati, acquistano questa particolare virtù, questa che noi chiameremmo non santità, ma questa cospicuità. Questo è quanto si può intendere da Ennodio. La citazione è puntuale e il testo è quello che si trova nelle Pseudo-Esidoriane. Quello che non si capisce nel passo della lettera ad Ermanno di Metz è l'inciso licet experimento sciamus, cioè si ha l'impressione che Gregorio VII, scrivendo ad Ermanno di Metz e ricordando il passo di Ennodio Simmaco, abbia voluto dire che certo esiste un precedente, mentalità del diritto positivo, licet experimento sciamus, cioè anche se poi noi lo sappiamo per una esperienza nostra. E qual è questa esperienza nostra? L'esperienza nostra è appunto in tutta quella serie di osservazioni che Gregorio VII aveva fatto precedentemente, in cui aveva appunto notato che mentre l'autorità degli imperatori e dei sovrani terreni era una autorità che non aveva mai dato un numero lontanamente paragonabile di santi, paragonabile a quello dei papi, invece la sede apostolica era stata illustrata da un grandissimo numero di santi. Quindi questa ragione storica, io intenderei licet experimento sciamus, questa ragione storica si aggiunge alla citazione del diritto positivo. E perché si aggiunge, se non proprio per il fatto che Gregorio VII doveva essere consapevole che l'interpretazione dei decreti simmati come esaltazione di una santità che, come dicevo prima, sia personale sia di ufficio, questa interpretazione non doveva essere accolta negli ambienti canonistici in misura favorevole. E aveva ragione di dubitarlo. Se noi leggiamo i gesta romane ecclesie, quelle di, per intenderci, di Bennone, dei cardinali scismatici, avete qui a pagina 399-400 del secondo volume dei Libelli de Vitae. Ecco, sì, un secondo, grazie. Se noi leggiamo, l'autore di questo testo non è certamente Bennone, è stato oggetto di una lunga discussione non ancora conclusa, non è il caso che ci si fermi. Però guardiamo il paragrafo 14, pagina 399. Grazie. Il paragrafo 14 è la riproduzione integrale della lettera del Manno di Metz. Vedete, gli avversari di Gregorio VII, quei nomi Debrandus, Urbanus, Anselmus, Deusdedit, sono I primi due, vabbè, Gregorio VII e Urbanus è un nome spregiativo per Urbano II, e gli altri due sono i due famosi canonisti. Bene, voglio dire, gli avversari di Gregorio VII rispondevano su questo piano di pubblicistica in maniera filologicamente accurata, cioè citavano il testo dell'avversario e poi lo commentavano. Il commento c'è a pagina successiva, pagina 400, paragrafo 15. Che la interpretazione del passo di Simmaco o di Ennodio non fosse quella generalmente accettata, lo dimostra proprio questa puntuale obiezione. Titulus iste il De Brandus et il De Brandum et discipulos eius scripturarum per versores manifeste de tesi. Richiamo la vostra attenzione su un fatto che dal nostro punto di vista è importante. La proposizione 23 è chiamata titulus esattamente come si chiamavano le rubriche dei canoni nelle collezioni canoniche. Quindi, non, almeno da questo punto di vista, anche se qui non è citato il dictatus pape, è chiaro per gli avversari di Gregorio VII che Gregorio VII abbia voluto dare un valore canonistico a quello che scriveva, prendendolo da Ennodio Simmaco, ad Ermanno di Metz. Tanto è vero che si parla di un titolo. Non solo, si prosegue: et totum enim est contrarius e idem capitulo cui ab Ildebrando et discipuli seius preponitus. Che cosa avviene? Avviene questo: Bellone e i suoi compagni rimproverano una distorsione, ma a livello più grave, cioè a livello di interpretazione della tradizione canonistica. E perché fanno questo rimprovero? Proprio perché Gregorio VII aveva cercato una base di diritto positivo alla sua affermazione, e questa base di diritto positivo era il frutto di una interpretazione fraudolenta del testo. Infatti, dice il libellista, come poterono esporre fedelmente le loro ragioni, no? E le ragioni del testo che studiavano, coloro che dissero che le parole del vescovo Ennodio erano un decreto di Simmaco. Come vedete, questo ci dimostra che c'era una forte coscienza filologica da parte degli avversari di Gregorio VII, i quali negavano appunto la base di diritto positivo, perché le parole sono di Ennodio, non sono un decreto di Simmaco. E andiamo avanti. Coloro che non riuscirono nemmeno a intendere l'esatto senso delle parole che Ennodio aveva detto. Verbum enim illustrat, quae Ennodius posuit pro manifestat, isti violentera ad errorem suum intorquentes posuerunt pro sanctificat. Tanto è vero che non esiste la base di diritto positivo e non esiste la possibilità di quella interpretazione, dicono, che l'illustrat di Ennodio acquista nella volontà fraudolenta degli avversari il significato non di mettere in evidenza, come invece è il significato di illustrare, ma di santificare. Si ricorre poi a un passo di Boezio, delle De Consolazioni Filosofie, in cui illustrare vuol dire mettere in evidenza. Tanto è vero che chi è messo in evidenza ed è per conto suo un santo, cioè non per il fatto di essere papa, viene maggiormente onorato, e chi invece è per conto suo di pravi costumi indegno, dal fatto di occupare un posto così elevato, viene invece ulteriormente penalizzato. Questo è il significato di illustrare. E quanto alla circostanza che basterebbe una elezione canonica, cioè regolare, questo non è vero, e non è vero per argomenti storici, no? Gli argomenti storici sono questi. E dice, quod perversitas quorundam ad omnem canonice electum violente intorsit, cum Deus ipse et ecclesia Anastasium et Liberium summos pontifices canonice electos post modum exigentibus eorum erroribus damnaverint. Tanto poco è vero che la santità può essere usata come argomento di immunità e di ingiudicabilità, che appunto i papi Anastasio e Liberio, che pure erano stati eletti canonicamente, furono poi successivamente condannati. Quindi non esiste dubbio che la interpretazione che Gregorio VII aveva fornito di questo passo, il passo di Ennodio, e le conseguenze che voleva trarre dalla dichiarazione di santità, non c'è dubbio, dicevo, che questa interpretazione fosse certamente non gradita a tutti, ma non solo per motivi polemici, perché noi dobbiamo riconoscere che le obiezioni fatte da Bennone e dagli altri cardinali sono obiezioni che hanno un carattere filologico. Che cosa allora ne consegue? Ne consegue che il dittato del Papa XXIII, alla ricerca di un diritto positivo, anzi non alla ricerca, con la dichiarazione di un diritto positivo, in realtà propone un tema che non ha ancora una base canonistica di diritto positivo assodata, perché l'invocazione della testimonianza di Ennodio e di Simmaco non è accolta da tutti. Mi direte, non è accolta dagli avversari, ma è accolta dagli altri. Infatti, ci fermeremo solo su due canonisti, e cioè, poi farò una breve citazione anche di Bonizzone e del Liber, cioè, e della Collezio di Duorum Librorum. Ma se noi prendiamo Anselmo e De Uzzelit, noi troviamo che certe difficoltà interpretative permangono anche in questi che sono sicuramente quelli che hanno maggiormente contribuito a costruire l'apparato giuridico della ecclesiologia di Gregorio VII. Io vorrei chiedere una cosa, ritenete di fare una breve pausa? Come volete, per me va benissimo. No, no, io posso andare avanti quanto volete. Non so, e soprattutto per i colleghi, se va bene. Ah, io da parlare. Hai da parlare un po' tanto. Sì, non vuol dire un po' troppo. E allora, forse adesso è meglio fare una pausa. Cioè, adesso abbiamo finito con Gregorio VI. No, no, io ho perlomeno un'ora, un'ora e mezza. Una breve pausa, soltanto prima ho dimenticato alcune formalità come le solite della presenza di cominciare, ci sono molte adesioni pervenute con l'impossibilità di venire, però soprattutto comincio a ringraziare i presenti, i membri del nostro comitato scientifico, il professor Rima di Mundo che è qui presente, ecco, e il professor Male, abbiamo visto la parte relativa al registro e a quello che possiamo supporre essere stato l'intervento più o meno diretto di Papa Gregorio VII. Il primo riferimento al testo di Ennodio, al di fuori del Dictatus Patris e del registro di Gregorio VII, in lettera a Ermanno di Metz, si trova in Anselmo Lucense. Anselmo Lucense, Collectio Canonum, libro sesto, canone secondo. Il libro sesto ha per titolo De Elezione et Ordinazione ad De Omni Potestate in Statu Episcoporum. Attiro immediatamente la vostra attenzione su questo fatto. Il libro sesto non riguarda il pontificato romano, non riguarda il primato romano, e non perché Anselmo non avesse, come poteva farlo, dimenticato questo titolo tradizionale nelle collezioni canoniche dell'epoca. Tanto è vero che il primo libro della collezione di Anselmo aveva come titolo De Potestate et Primatu Apostolice Sedis. Tuttavia, il ricordo del passo di Ennodio non è nel libro primo, ma è nel libro sesto. Il libro sesto, che è dedicato, come dice il titolo, alle procedure di elezione e ordinazione dei vescovi. Nella tradizione canonistica precedente a Anselmo, il libro del Romano Pontificato, non quello dell'elezione, si era aperto con il ricorso, però, di testi tratti dai Decreta Simmachi, soltanto in un caso, cioè il collegamento tra i Decreta Simmachi e il De Romano Pontificato era avvenuto solo in una collezione. E precisamente nelle Diversorum Sententiae Patrum, oppure collezione di 74 titoli, che oggi noi abbiamo finalmente in edizione. Al titolo 22, canoni 174-177. Non c'era il ricordo di Ennodio in Vulcano. E come ho già detto, il primo libro di Anselmo non riportava il passo di Ennodio. Nel pensiero di Anselmo il pontificato romano viene illustrato specialmente per la preminenza della sede apostolica sulle altre sedi vescovili e per la facoltà concessa al Papa di deporre gli imperatori. Questi sono gli argomenti del primo libro di Anselmo. Ho appena bisogno di dire che sono temi ampiamente illustrati nel cosiddetto Dictatus Patris. Il Dictatus Patris quindi è presente ad Anselmo per quanto concerne il tema del primato romano, ma non con riferimento al Dictatus Patris 23. Che questa proposizione sia invece manifestamente presente, naturalmente con il riferimento alla lettera di Ermanno di Metz, nessuno ha mai citato direttamente il Dictatus Patris, e questa è un'altra cosa sulla quale dovremo tornare. Però la lettera di Ermanno di Metz Anselmo la conosceva e la cita nel libro sesto, cioè in un contesto essenzialmente procedurale, e questo è molto significativo. È ancor più significativo il fatto che il titolo del capitolo secondo del libro sesto non faccia alcun riferimento, e qui vi prego ancora una volta della massima attenzione, alla canonica Electio. Ricordate che cosa diceva, ritorno, la proposizione 23? Si canonice fuerit ordinatus. Bene, in Anselmo questa condizione non c'è. Il titolo di Anselmo del capo secondo libro sesto è invece molto significativo: ut sanctum esse nemo dubitet quem apostolice dignitatis apex iuste attollit in eadem sinodo el novio episcopo dictante. Prendiamo atto che troviamo questo verbo con un significato preciso in un contesto canonico. Non c'è dubbio che il titolo di Anselmo riproduca più fedelmente lo spirito, oltre che la lettera, di Ennodio Simmaco, da che appunto nel decreto di Simmaco si leggeva «Quis erim sanctum esse dubite, quem apex tante dignitatis attollit», esattamente come viene poi riprodotto nel testo del canone anselmiano. Chiediamoci comunque perché si sia introdotto quel «iuste» nel titolo. Il passo di Ennodio non aveva giusto. Il passo della lettera ad Ermanno di Metz riproducendo Ennodio non aveva giusto. Il dictatus pape 23 non aveva giusto e aveva sì canonice fuerit ordinarius. Perché Anselmo mette giusto? Guardate che se noi proviamo a tradurre, giusto non vuol dire assolutamente nulla, cioè è un pleonasmo. È un pleonasmo privo di senso. Infatti, poiché l'apex tante dignitatis, cioè della dignità apostolica, è Pietro, è pienamente coerente che si supponga essere santo chi sia stato elevato alla dignità papale, di cui appunto Pietro è l'apex. Ma che cosa vuol dire? Che nessuno può dubitare che sia santo colui che giustamente sia stato elevato a quella dignità da Pietro. Pietro non poteva elevare altro che giustamente. Non possiamo ammettere, cioè, che ci siano dei casi in cui Pietro abbia potuto elevare ingiustamente e quindi far diventare ingiustamente santo qualcuno. Giuste, quindi, non dà ragione di se stesso. La contraddizione è tanto patente che non può non sorprendere, specie perché, a quanto è dato di sapere, nel passo anselmiano, quello di cui stiamo parlando, non c'è in sostanza, e qui, io mi chiedo scusa, chiedo scusa ai colleghi tutti, io devo lavorare con testi che hanno edizioni di diverso valore. E noi, per quello che concerne Anselmo, siamo ancora a Tanner, però questo è un passo che non sembra abbia avuto molti tormenti. Ora, non è che quel iuste sia di una tradizione manoscritta e non sia presente in un'altra, sembra che tutta la tradizione manoscritta lo attesti. Aggiungerò che in proposito non abbiamo nemmeno il confronto del conforto, voglio dire, del confronto con la collezione in 74 titoli, che come sapete costituisce in parte un presupposto. Io credo che la collezione in 74 titoli sia stata scritta prima di Anselmo, perché questo passo, come ho già detto, non ha riscontro nella collezione in 74 titoli. Quindi niente è proprio di Anselmo. Ma che cosa significa? Abbiamo già detto che non c'è in Anselmo alcun riscontro con la lettera ad Ermanno di Metz, che certamente Anselmo conosceva. Dove non c'è riscontro? Non c'è riscontro in questo punto, perché nel primo libro, canone 80, quella lettera è certamente ampiamente citata. Ma in questo punto non c'è riscontro. Ne potrebbe esserci proprio per la presenza di quell'iuste che nella lettera del Manno di Metz non compariva. Cioè, iuste Anselmo non aveva letto né il Nennovio né il Gregorio VII. Proviamo adesso a effettuare un confronto tra il Titulus di Anselmo 6.2 e il Dictatus Pape 23. Ripeto, il Titulus di Anselmo è questo. Ut numo dubitet quem apostolice dignitatis apex iusse astollit. Il Dictatus Pape 23 è quello che avete dinanzi. Quod Romanus Pontifex si canonice fuerit ordinatus meris beati Petri indubitantes efficitus sanct. Da questo riscontro che cosa notiamo? I punti di contatto testuale non sono molti. I punti di contatto di contenuto sono invece abbastanza evidenti. A indubitanter efficitur sanctus della proposizione del Dictatus Pape fa riscontro nel passo di Anselmo ripreso da Ennodio: nemo dubite sanctum est. Al si canonice fuerit ordinatus non c'è riscontro, a meno che non si voglia vedere questo riscontro proprio in quell'avverbio iuste. Questa è l'unica possibilità. Mentre per quanto concerne l'azione di Pietro, è impossibile non rilevare nel passaggio da Dictatus Pape 23 a Anselmo 6.2 una variazione di grande importanza. Nel titolo di Anselmo, infatti, non vi è cenno, nel titolo inteso, ai meriti di Pietro, da che di Pietro si fa menzione in tante dignitatis apex, cioè Pietro era presente nel titolo per quel apex tante dignitatis e dei suoi meriti, è esplicito riferimento nel testo di Ennodio Simmaco precedentemente citato. Quindi Anselmo non ricorreva a una esplicita identificazione di Pietro nel titolo, non lo metteva, in altre parole, in evidenza. Tutti conosciamo la tecnica dei titoli dati ai canoni dai canonisti. Il titolo costituisce come una sorta di guida interpretativa. Ora, il fatto che non compaiono immediatamente i meriti di Pietro può avere qualche significato, anche se poi il testo, riproducendo Ennodio, ne parla. Ora, è legittimo a questo punto ipotizzare che Anselmo, proprio per la conoscenza precisa che aveva del testo della lettera di Ermanno, e proprio perché doveva conoscere il Dictatus Pape, che assume nella sua stessa collezione il valore del titulus per canoni che sono ripresi dal testo di lettera di Gregorio VII, infatti Anselmo 1.80, quello relativo alla deposizione degli imperatori, riprende il testo dalla lettera di Ermanno di Metz, ma come titolo riprende quello degli Stati Spati. Come mai allora, proprio in questo caso, non riprende il titulus dagli Stati Spati? Allora, Anselmo probabilmente doveva cercare un compromesso nel titolo del libro sesto, capitolo secondo, e doveva far apparire la condizione posta dal Dictatus Pape 23 si canonice fuerit ordinatus non come una limitazione dell'azione di Pietro, perché in sostanza nel Dictatus Pape l'azione dei meriti di Pietro ha un corrispettivo limitante in quel si canonice fuerit ordinatus. Nessuna menzione di canonica ordinatio c'era nel testo di Ennodio. E questo bene aveva visto Benone e gli altri cardinali scismatici. Non poteva esserci, perché o accettiamo l'influenza dello spirito, l'influenza dei meriti di Pietro, quello che appunto lei diceva prima, che emerge nel nuovo eletto, ma allora la canonica ordinatio non è una condizione preventiva e quindi non va menzionato. O noi accettiamo invece che un requisito sia la canonica ordinatio, ma allora è mettere un grosso limite e in qualche modo svalutare questa effusione dei meriti di Pietro. E allora Anselmo, a mio avviso, si è trovato di fronte a questa difficoltà. Difficoltà che ha creduto di superare in questo modo. La canonica ordinatio non è un limite dell'azione di Pietro. Lo juste non è una contraddizione, perché Anselmo verrebbe a dire questo: chi è giustamente elevato da Pietro, indubitabilmente è santo. Chi viene elevato ingiustamente, lo è perché non è elevato da Pietro. È l'unica spiegazione che non sia contraddittoria. Mi spiego. Pietro non può elevare al soglio pontificio in maniera ingiusta. E quindi quel iuste, ha un valore solo se riferito alla persona. Cioè chi giustamente è elevato, giustamente perché in lui ci sono i meriti di Pietro. E allora va bene. Nel negativo che Anselmo non si propone, ma che noi dobbiamo proporci per capire come mai ci sia quell'iuste, come suonerebbe? Che chi è elevato ingiustamente non può essere uno che sia stato elevato da Pietro. E allora si capisce il compromesso con il titolo, con la condizione del Dictatus Pape 23. Si canonice fuerit ordinatus sta a significare che questa elezione canonica è essa stessa un aspetto dell'azione pneumatica dei meriti di Pietro. Ove questa non ci sia, la elezione non è canonica, e quindi, se la mia interpretazione di Anselmo è esatta, si può anche essere il caso di qualcuno che sia elevato, ma in questo caso ingiustamente. Quindi non è riferito in Anselmo quell'iuste a Pietro, ma è riferito alla persona e alle procedure che questa persona, di cui questa persona si serve per essere elevato. Ed è veramente assistito da Pietro se queste procedure sono canoniche, perché nel senso dei canoni può essere ispirata all'elezione. Ove così non sia, certamente diventa ingiusta, ma Pietro è fuori causa. Perché, se la mia ipotesi è vera, se la mia interpretazione, io non ho fatto un'ipotesi, io ho cercato solo di spiegare una apparente contraddizione. Ma perché Anselmo è stato costretto a questo giro? Tanto più che nel testo di Ennodio lui iuste non lo trovava, come non trovava sì canonice fuerit ordinatio. Secondo me, proprio perché aveva davanti agli occhi il Dictatus Pape e non poteva non registrare qualche cosa. Mi direte che è un po' tirata per i capelli, e io mi permetto di credere di no, anche perché se noi guardiamo come suona il titolo nell'altro grande canonista, in Deutlewitz, che cosa troviamo? Nel titolo non troviamo assolutamente nulla, è a pagina 91, capitolo 132, è questo. Nel titolo non troviamo niente. Eneade Messinodo e Nodio, avete trovato? Episcopo di Cante. Abbiamo il testo di Ennodio che ormai sappiamo a memoria, no? Qui non troviamo proprio nulla, non troviamo nulla, però sappiamo una cosa. Sappiamo, cioè, intanto che della collezione di Deus Vidi, che possediamo ahimè in una edizione che forse ancora meno apprezzabile di quella di Anselmo, beh, nella collezione di Anselmo, scusate, nella collezione di De Utledit abbiamo l'indice, le capitulazioni, le abbiamo tutte insieme. Relativamente al capitolo 132, la capitulazione, la capitulatio, suona in questo modo. Lo potete vedere nel commento del Caspar al Discato Spatio. Quod ipse indubitanter sanctum sit, si canonice consecratus est. Va bene? Ora io richiamo la vostra attenzione su un fatto. Se non fosse stato il Dictatus Papae a ispirare questi titoli, indubbiamente De Utledit non l'avrebbe messo. Ma De Utledit lo mette con una grossa variante, però. Nel Dictatus Papae era si canonice fuerit ordinatus. Per De Utledit è consecrato. Io non posso aprire un'altra parentesi in questo discorso che è già molto lungo. Voglio solo dire che l'ordinatio, come era intesa nell'epoca, aveva un significato molto più generale, ma anche generico, che non consecratio, che rimandava all'atto finale, no, di tutta la procedura di elezione. Si canonice fuerit ordinatus di Gregorio VII rimandava indietro e in avanti a tutta la procedura. Per De Utledit, invece, noi abbiamo la richiesta della condizione si canonice fuerit consecratio. Oh, la consecratio era l'atto finale, la consecratio avveniva a precise e particolari condizioni. La procedura di elezione era stata fissata nel 1059 dal famoso decreto e prevedeva una serie di fasi come una serie di partecipazioni. Perché De Utledit ritiene di dover mettere questa condizione? De Utledit mette questa condizione, secondo me, per due ragioni. Intanto nel titulus di De Utledit non compare Pietro. Li leggiamo ancora una volta. Quod ipse indubitanter sanctus sit, si canonice consecratus est. Per De Utledit il fatto della santità, anche se poi naturalmente, come vediamo, il testo ricordava Pietro e i suoi meriti, ma per De Utledit nel titolo, cioè nella chiave esplicativa che forniva a chi avrebbe usato la sua collezione, si limitava a indicare un automatismo garantito solo dalla procedura. Se la cioè l'atto finale, ecco perché è garantito solo dalla procedura, se l'atto finale è canonico, ed è chiaro che l'atto finale è canonico se gli atti precedenti sono canonici, allora indubitante reficitur sanctus, come questo avviene, avviene per i meriti di Pietro. Questo è già un passo in avanti, ma è anche la prova dell'imbarazzo in cui si trovavano gli stessi collaboratori di Gregorio VII di fronte a quella mescolanza di procedura canonistica e invece intervento pneumatico dello spirito per i meriti di Pietro. E in sostanza quello che avverrà sempre di più nel corso del secolo XII, quando questo intrecciarsi, ecco, direi proprio così, questo intrecciarsi di motivi giuridici e di motivi teologico-ecclesiologici era nell'undecimo fitto, nel dodicesimo comincia a decantarsi e nell'ambito dei canonisti le motivazioni teologico-ecclesiologiche cedono sempre di più il passo a considerazioni invece di natura procedurale, in questo caso di natura canonistica e soprattutto con riferimento a un diritto positivo. Per dire allora che se questo era successo a De Usbedis ed era successo alla John Veduta, perché lui conosceva gli status, e dato che anche Anselmo conosceva gli status, ma non ne fa menzione, lo Iuste è effettivamente, con buona probabilità perlomeno, un compromesso fra il testo di Ennodio, che non prevedeva nessuna procedura canonica, e il testo del Dictatus Papae, che invece la metteva come condizione. Abbiamo cercato di dirimere questa difficoltà. Anche se Anselmo non può oggettivamente contenere nel canone secondo del libro stesso il caso di una elezione ingiusta, che non è mai contemplata da Gregorio VII, egli suggerisce una soluzione della brachilogia gregoriana. E non per nulla riferisce il testo di Ennodio Simmaco, ecco, e qui vi prego di stare attenti, fino a comprendere questo passo. Prenoscit enim Petrus, quid ecclesiarum fundamento sit habile, super quod ipsa moles innititur. Questo è il passo di Anselmo. Dice Anselmo, lo potete controllare. Ho detto che questo passo si trovava anche nella lettera ad Ermanno di Metta. Andiamo a leggere la lettera ad Ermanno di Metta. Ricordo che è 8:21. Ora, se noi leggiamo il passo di Ennodio riportato nella lettera ad Ermanno di Metz, noi vediamo che questo passo, riportato da Gregorio VII, si interrompe prima. Abbiamo in Gregorio VII, qui se enim sanctum esse dubitet, quem apex tanti dignitatis attolli, in quosi desint bona acquisita per meritum sufficient quea loci decessore prestante, aut enim claros ad ec fastigia erigit, aut eus pieriguntur illustra. In qui Gregorio VII. Che cosa leggiamo invece oltre in Anselmo? Aut enim claros ad ec fastigia erigit, aut pieriguntur illustra. Prenoscit enim quid ecclesiarum fundamento sit habile, super quod ipsa moles innititur. Perché Anselmo ha ritenuto di dover aggiungere quest'altro pezzo del passo di Ennodio? Ma perché solo a questa condizione tutto il suo discorso diventava coerente. Cioè solo immaginando che l'eletto fosse previsto in una, così, in una dimensione di escatologia universale, nel disegno imperscrutabile della provvidenza, solo immaginando che Pietro lo prevedesse e prevedesse che cosa doveva essere utile a reggere la mole di tutta la Chiesa, solo a questo punto la interpretazione degli Iuste si reggeva. Una preoccupazione che Gregorio VII non aveva, perché? Perché lui aveva legato la santificazione del pontefice alla elezione, alla ordinazione canonica. Vedete anche da questi piccoli fatti questa differenza tra il passo citato da Gregorio e il passo citato da Anselmo non mi risulta che sia mai stata notata. Non la noto né nell'apparato esegetico delle edizioni né anche nelle più recenti pubblicazioni. Approfitto, faccio una piccola parentesi, questo libro che è uscito nel 68 a Londra, cioè a New York, del Robinson, Authority and Resistance in the Investiture Context, e che riguarda la liberistica del tardo secolo XI, per quanto concerne l'argomento che ci interessa, è fermo addirittura alla letteratura dell'Ottocento. Quindi, purtroppo, forse è difficile procurarsi sempre tutto. Ma voglio dire che è molto significativo che Anselmo abbia avvertito il bisogno di essere più coerente, il massimo di coerenza, di avere il massimo di coerenza nella sua presentazione. Anselmo, tuttavia, sembra suggerire ancora qualche cos'altro rispetto al dittato Papa XXIII, e cioè lo stretto collegamento che egli pone tra la elezione che è voluta da Pietro, la santità e la conseguente automatica proiezione al di sopra del corpo della cristianità di coloro che, già cospicui per virtù, vengono elevati ai fastidi del papato, o di coloro che, non cospicui ma comunque scelti per sua ispirazione, vengono resi cospicui. Perché dico che c'è questa proiezione? Perché dire che chi viene elevato è già in qualche modo previsto in un disegno così provvidenziale, cosmico, di escatologia, no? Nella dimensione escatologica, significa veramente dare il significato più proprio a questa santità, che non può essere la santità intesa nel modo solito. Anselmo quindi ha avvertito tutta una serie di difficoltà implicite, aderiva alla posizione di Gregorio VII, ma era altrettanto fermo nel presentare canonisticamente veramente una base di diritto positivo per il dictatus Papa XXIII. E in qualche modo noi possiamo immaginare che, ricevuto l'impulso dal dictatus Papa XXIII, abbia poi veramente cercato di dare un contenuto, titulus et capitulum, come diceva Bennone, no? Ma nel dare questo contenuto ha dovuto mutare il titolo. Mi direte, ma Bennone accusa anche Anselmo, questo non c'è. Bennone accusa Anselmo perché Anselmo è nel gruppo. In realtà l'obiettivo polemico è quello di Gregorio VII. D'altro canto, non è senza motivo che la serie dei passi di Ennodio Simmaco apra le considerazioni circa la elezio e ordinatio dei vescovi per l'insistenza che in quei testi, cioè nei testi simmachiani, si pone sull'aspetto spontaneo della scelta e solo secondariamente però sulla concordia o sulla preferenza maggioritaria degli elettori. Anselmo non ignorava certamente il decreto del 1059, e le sinodiche di Niccolò II, sono ricordate nello stesso libro al capitolo 12 e capitolo 13, ma non ignorava nemmeno il fatto che l'elezione di Gregorio VII era avvenuta in un contesto che è difficile definire vicino alle procedure previste dal decreto del 1059. Consentitemi un brevissimo riepilogo. Il decreto del 1059, ormai su questo c'è una notevole concordanza dopo lo studio, io mi permetto di ritenere veramente molto importante, di Hans-Georg Strauss. Beh, il decreto 1059 non ha quel carattere anti-imperiale che tutta una letteratura ha pensato. Il decreto 1059 è semplicemente lo sforzo di normalizzare una procedura che era stata seguita per la elezione di Niccolò II, di offrire finalmente un modello, non escludeva per niente l'intervento dell'imperatore, lo prevedeva in un certo modo. Mi permetto di rimandare a quello che ho scritto a proposito della Dissertatio Sinodalis, Il decreto del 1059 cercava di fare ordine. Lasciamo perdere la redazione papale o la redazione imperiale. Le differenze non sono poi così gravi come si potrebbe immaginare. Non devo parlare di questo. Voglio solo dire che questo decreto, nella sua versione romana, quella che è chiamata papale, da quando era stato emanato nel 1059, non aveva mai avuto occasione di essere applicato nel contesto romano, cioè proprio in quel contesto in cui era nato. Pensate alla elezione di Alessandro II, che proprio per non essere avvenuta secondo la procedura del decreto del 1059 determina lo scisma di Cesaro. Pensate alla elezione di Gregorio VII, la elezione di Gregorio VII, lo vedremo adesso, non avviene secondo quella procedura, la elezione di Gregorio VII è uno dei bersagli preferiti della libellistica pro-iricana, è uno dei motivi per cui a Worms nel 1076 e poi dopo la seconda scomunica, dopo il 1080, viene addotto come prova della invalidità, della illegittimità di Gregorio VII. Ecco allora perché si canonice fu ritornato. Bisognava mostrare di non temere le accuse circa la irregolarità della elezione e collegare in una maniera alquanto bizzarra la regolarità della elezione con un elemento che altro che regolarità dell'elezione. I meriti di Pietro bastavano ampiamente a coprire qualsiasi tipo procedurale di elezione. Vediamo ancora una volta come certe cose avvengono in un contesto molto preciso e molto specifico. Quando questo contesto non ha più determinate urgenze, le irregolarità cadono, in Anselmo sono cadute. Dunque, dicevo, Anselmo sapeva tutto questo, sapeva che la elezione di Gregorio VII era avvenuta non certo secondo la procedura del 1059. Voi sapete che sulla elezione di Gregorio VII noi possediamo due testimonianze dirette, diciamo. Quello che il Caspar all'apertura del registro, si trova all'apertura del registro Vaticano II, quello che Caspar ha chiamato officieses protocollo, no? Cioè il protocollo ufficioso, no? È un testo che è attribuito ai cardinales clerici. Dunque, nos sancti romani cattolici et apostolici ecclesiae cardinales clerici accoliti subdiaconi diaconi presbiteri, che cosa dichiarano? Dichiarano che tutti quanti con il loro consenso plurimis turbis utriusque sextus diversique ordinis acclamantibus eligimus nobis in pastorem et summum pontificem virum religiosum eccetera, no? Per finire poi con le tre domande, placet vobis, placet vultis eum, volumus laudatis eum, laudamus. Bene. Questo è il protocollo ufficioso. L'altra testimonianza diretta è nella lettera 1.3 del registro che Gregorius in Romanum Pontificem Electus, che non ha ancora il titolo di Servus Servorum Dei, che veniva preso dopo la consecrazione. Gregorio scrive proprio a quel Viberto di Ravenna che di lì a pochi anni sarebbe stato. La narrazione di Gregorio VII è molto meno protocollare o falsamente protocollare del testo che abbiamo visto prima. La narrazione di Gregorio VII è accurata e drammatica. La sua elezione sarebbe venuta mentre si svolgevano i funerali di Alessandro II, E stranamente, al contrario di quello che avveniva di solito alla morte di un papa, il popolo di Roma era quieto e si rimette a lui, a Aldebrando, che da tempo del resto reggeva tutto il governo della Chiesa romana. Allora stabilisce le onoranze, unde accepto consiglio hoc statuimus, ut post triduanum iunium, dopo un triduo, no? Post multorum rationem lemosinis con divino fulci auxilio, statueremus quod de elezione romani pontificis videretur melius. Ecco, nella comunicazione di Gregorio VII a Viberto, per la successione di Alessandro II si dice, beh, noi abbiamo deciso con l'accordo degli altri, quindi con l'accordo dei cardinali, immagino, ai quali cardinali vescovi veniva commesso il primo compito nella procedura di elezione da parte del decreto del 1059. E dopo tre giorni, dopo queste onoranze, abbiamo deciso di stabilire che cosa si dovesse fare per l'elezione del nuovo pontefice. Però, sin subito, cum predictus dominus noster papa in ecclesia salvatoris sepulture traveretus, ortus est magnus tumultus populi, et freditus, et in me quasi vesani insurrexerum, miei dicendi, miei consulenti facultati, auspacii relinquentes, violentis manibus me in locum apostolici regimini, cui longe impar sum, ratuero. E eletto a furor di popolo. Lasciamo perdere, noi non sapremo mai, ma è probabile che le cose siano andate così. Aldebrando godeva di un prestigio enorme e già precedentemente aveva disposto, proprio nel caso di Niccolò II, le cose in maniera che l'elezione avvenisse in un contesto di regolarità. Ma non è questo quello che ci interessa. Quello che ci interessa è la preoccupazione che traspare anche in questa lettera, indirizzata, badate, a quel coepiscopus, all'arcivescovo di Ravenna, che da sempre rappresentava il punto di vista imperiale in Italia. La preoccupazione di Gregorio VII è dire, io volevo seguire una certa procedura, ma poi improvvisamente le cose sono andate così. Io non ci tenevo, io non ho avuto il tempo di consultarmi, di discutere. Perché dice questo? Per scusarsi, certo, ma soprattutto perché la tractatio preliminare alla eletio era esplicitamente prevista dal decreto del 1059. Ora niente era avvenuto in tutto questo, assolutamente nulla. E fin dalle prime battute Gregorio VII avverte che un punto debole, da un punto di vista canonico certamente, può essere rappresentato da questa notevole diversità che presenta la sua elezione rispetto a quello che era stato concordato nel 1059. La cosa è tanto più grave in quanto non erano intervenuti quei casi eccezionali che Pier Damiani nella Disceptatio Sinodalis ricordava a proposito dell'elezione di Alessandro II, quando aveva scritto anche alla corte tedesca che ma sì, certamente l'imperatore non era stato avvertito, ma era mancato il tempo e l'imperatore del resto non era ancora imperatore, era in minore età, c'era un consiglio di reggenza. Al tempo di Gregorio VII questo non c'era. Allora si trattava di dire, noi volevamo farlo, ma la volontà del popolo è stata questa e il popolo era ispirato. E vedete quindi come ritornano certi motivi, come se questo continuo trapassare da una dimensione appunto pneumatica dell'accadimento dell'evento alla necessità di trovare una giustificazione di tipo invece procedurale, giuridico. E come di fatto da questo tipo di preoccupazione forse non dopo il 1066, ma forse fin dagli inizi del pontificato di Gregorio VI. Allora, perché Simmaco, perché i decreti Simmaci potevano essere più giovevoli di altri testi canonistici? Questo è abbastanza evidente. Si tratta di una elezione per acclamazione che nega, per dichiarazione dello stesso Ildebrando, l'esistenza di una qualsiasi tractatio, nonché di una successione di fasi procedurali quali erano previste dal testo del decreto del 59, voi nella redazione cosiddetta romana, voi nella redazione cosiddetta imperiale. Non può esservi dubbio sull'intento escusatorio che ha il testo della lettera di Berti. E lo stesso cosiddetto protocollo ufficioso della elezione conferma in questa valutazione. C'è un'elencazione all'inizio disordinata dei corpi elettorali. Non c'è modo di capire che cosa, e questo non lo dico io, ma l'hanno detto tutti, anche lo stesso Plinio. Cosa vuol dire cardinale clerici, accoliti, subdiaconi, diaconi, presbiteri, presentibus, venerabilibus, episcopi, setabatibus, clerici, settimonici e monachi consenzientibus? Se noi accostiamo questa elencazione, che è alquanto disordinata, con il testo del decreto di elezione pontificia, non ritroviamo tutti gli elementi. Allora, dico, se le cose stanno così, la elezione era avvenuta in un contesto totalmente diverso, anche se il protocollo cercava di, così, di aggiustare le cose, ma il protocollo e la lettera, che sono diversi nello spirito, su un punto coincidono. L'elezione ha un carattere corale di adesione a Ildebrando, con quello insistere su formule come Placet, Vulti, Laudati, e guarda caso noi ritroviamo in tutta la lunga serie del Decreta Simmati, no? Cioè nel livello pro sinodo, cioè noi troviamo in un contesto in cui la procedura non è certamente quella prevista dal decreto del 1059. Ecco perché l'appello al popolo. Certo, il decreto del 1059 prevedeva che alla fine ci fosse una acclamazione, ma alla fine di un rituale molto preciso. Qui invece si ha l'impressione che si voglia sottolineare il carattere spontaneo, immediato e di immediata e indiscutibile buona accoglienza fatta all'elezione di Ildebrando. Solo a questo fatto, allora, nella definizione che veniva data di una elezione, proprio in apertura di trattazione da parte di Anselmo, era possibile inserire il passo di Ennodio Simmaco. Quale migliore prova di un intervento pneumatico per il tramite di Pietro che la coralità dei consensi sul nuovo elenco? E allora forse si può concludere su questo punto, dedicato ad Anselmo, osservando che Anselmo ha compiuto per primo lo sforzo di fornire una spiegazione gregoriana, ma canonicamente non impossibile e non contraddittoria, di un evento che nel momento in cui egli componeva la sua collezione, prima metà degli anni Ottanta, era oggetto, come abbiamo visto, di molte contestazioni. Rientra perfettamente in questa dimensione l'espressione del titolo di Anselmo 6.2, di Iusse, che evita il vago e generico che è contenuto nella condizione posta da Dictatus Papis, canonici e puri ordinati, e in sostanza rimanda alla valutazione della regolarità della procedura, che egli sa benissimo dover essere concordia o maggioritaria, all'evento stesso. Iusse attollit può anche limitarsi alla considerazione della sola elezione. Ecco perché Anselmo non parla né di ordinatio né di consecratio, che sono fatti procedurali e che se sono fatti procedurali devono rimandare a una procedura. E qual era la procedura? Quella del 1059. Ma tutti sapevano, per primi gli amici di Gregorio, che quella procedura non era stata osservata. E allora si insiste sui meriti di Pietro, che compaiono nel testo di Ennodio. Si insiste sullo ius, che vuol dire appunto che c'è stata un'ispirazione pneumatica. Non si insiste sulla procedura. Teusdedi, che aveva preoccupazioni di tipo diverso, come abbiamo già visto, cambia le cose. Rapidamente in altri ambienti gregoriani. Per Bonizzone, che dovreste avere il testo, è un foglio solo, questo qui. Sì, questo. Per Bonizzone, nel Liber de Vita Cristiana 4.75, la questione si pone in termini completamente diversi quanto al titolo. L'aspetto della santità non vi è minimamente accennato, ma solo quello dei meriti, poiché il titolo su stesso suona «Quod in papa desit bona per meritum, sufficiunt que apus decessorem prestante». Questo è il titolo, come voi potete vedere, di 4.75 in Bonizzone. La preoccupazione evidente non è tanto quella procedurale, anche in questo caso, né quello della superiorità riconosciuta della personalità del Papa, in quanto santo anche se in vita. Il problema che appare primario per Bonizzone è piuttosto quello sottaciuto da Dictatus Pape 23, della eventuale indignità personale del pontefice. Che cosa viene a dire immediatamente Bonizzone? Badate che anche se lui non avesse meriti sufficienti, gli derivano da quelli che sono apus decessorem. Badate, non si parla nemmeno di Pietro, cioè è chiaro il riferimento a Pietro, ma è anche chiaro secondo me il collegamento che viene fatto in tutta la serie dei passi, dall'immediato predecessore al primo. Questo è vero a tal segno, secondo me, che il contenuto di 4.75 del Libro di Vita Cristiana presenta, e vi prego anche in questo caso di attenzione, noi abbiamo visto in Anselmo, in Gregorio VII, sempre dei pezzi continui, degli esserta certamente di Ennodio, ma non della cucitura di due pezzi, di un pezzo continuo. In Anselmo un pochino più lungo rispetto a Gregorio VII, ma si tratta di pezzi continui. In Bonizzone non avviene così. Infatti vedrete che io ho sottolineato a metà, che ho segnato a metà del capitolo 75, vicino a Item Bidel, no? Ecco, il pezzo di Ennodio Timmaco, insomma, per intendersi, è ottenuto mediante un taglio e una cucitura, e la procedura è abituale nei canonisti, che se lo sappiamo, ma è significativo il taglio e quella cucitura. La preoccupazione evidente appunto non è quella procedurale, ma nel 4.75 del Libro di Vita Cristiana noi abbiamo, in difformità da quanto avviene negli altri contesti canonistici filo-gregoriani, la congiunzione in due pezzi. Il primo che si ritrova nelle pseudo evangeliane a pagina 666, Beati Petrus perenne merito, è il testo che abbiamo letto tante volte, ma il secondo si trova a pagina 662 e costituisce una importante integrazione che poteva essere supposta certamente da Gregorio VII e da Anselmo, perché il riferimento al contenuto perlomeno c'è. Ma il testo così collegato dà un risultato diverso. Infatti, aliorum hominum causas Deus volit per homines terminare. Se ti fio di sedi presulum suo, fine questione, reservavit arbitrio. Volvit beati petri apostoli successores, celo tantum debere innocentiam e subtilissimi discussori, indagini inviolatam e libere conscientiam. Cosa vuol dire questo? Fino a questo momento, anche se noi avevamo trovato all'interno del Dictatus Pape, nel contesto della polemica, la questione della santità del Papa non era mai stata esplicitamente collegata con quella della immunità del Papa. Bonizzoni lo fa, cucendo due pezzi del decreto assunto. E questo mi pare molto significativo, per due ragioni. I tempi premono. Ormai sappiamo che al tempo in cui Bonizzoni scriveva il libro di vita cristiana, la polemica era scoppiata, era violentissima. Ma poi c'è anche un'altra considerazione. A che cosa può servire la proclamazione della santità se non a preservare il Papa da qualsiasi accusa? Voglio farvi rilevare che la esclusione dal giudizio degli uomini e la riserva esclusiva di questo giudizio a Dio non ammette deroghe. Nel testo ennodiano-stigmatiano che Bonizzoni dice a quello tradizionale non ci sono casi eccezionali, non ci sono deroghe. È solo Dio che deve giudicare il Papa. Teniamolo ben presente, perché nello stesso giro di anni un personaggio che noi abbiamo già incontrato, Deus Vivit, inserirà nella sua collezione un testo che ha prima fatto impazzire i decretisti, come vedremo forse nel pomeriggio, e poi ha fatto impazzire noi storici, che forse non abbiamo ancora finito, e che è noto come il famoso frammento a Vesanza Romana Ecclesia, sui quali sono stati iscritti, anche con la modesta collaborazione di chi vi parla, fiumi di religiosi, e probabilmente altri fiumi saranno scritti. Questo frammento che noi leggeremo, e leggeremo perché è una delle poche cose di battaglia gregoriana che si è finita poi nel Decretum di Graziano, alla famosa distinzio 40 capo sesto, questo che io faccio riprodurre, ma che vedremo dopo. Ora, mentre Bonizzoni si preoccupava di cucire due pezzi con i quali la difesa del Papa era totale, era corazzato, catafratto, è santo e solo Dio, comunque vadano le cose, lo può giudicare. Mentre Bonizzoni diceva questo, contestualmente veniva inserita nella collezione di un gregoriano, qual era De Urbeli, questo brano, che invece una deroga, vedremo di che tipo, perché io su questo testo mi permetto di avere un'idea un po' diversa da quella tradizionale, ma comunque una deroga. Torniamo a Bonizzoni. Perché questo taglio e questa saldatura, se non per il fatto che la posizione del Papa è particolare nello specifico della possibilità di accusa nei suoi confronti? Bonizzoni è la spia, si parlava prima di spie, di come negli ambienti che certamente dovevano essere più sensibili alle conseguenze di una definizione del Papa come sanctus, solo in seguito a una canonica ordinatio, si fosse inteso pieno almeno un aspetto, e contingentemente quello fondamentale, dati gli eventi di Worms, delle preoccupazioni che si celavano dietro la rigida presa di posizione del Dictatus Papae 23. Voglio dire che a questo punto la questione del Papa Sanctus non è una questione di meriti o non meriti. La questione assume tutto il suo rilievo perché se il Papa è Sanctus in seguito a un'ordinazio canonica, come diceva il dittato Pape, e come Anselmo si era preoccupato di sgombrare invece, l'accusa di una non canonicità dell'ordinazione faceva cadere la santità, ma se cadeva la santità cadeva il presupposto dell'immunità, e invece ecco che l'immunità è comunque salvata. Mi direte, ma non era salvata anche dalla presenza nel dittato Pape del Constituto in Silvestri? Quod anime iudicare potest, sì, ma era salvata nel negativo. Allora chi è che lo giudica? Non si diceva. Uno. Due. Quod anime iudicare potest ammetteva implicitamente una deroga, perché era una formula che trovava riscontro, anche se fonte diversa, nella procedura di accusa per i vescovi. La deroga, come tutti quanti sapete, era rappresentata dalla clausola nisi a fide veges de prelendati. Nessun clericus poteva accusare il proprio vescovo, ma in caso di eresia sì. E ricordate all'inizio del seminario che era praticamente impossibile portare un'accusa a qualcuno che fosse alto nella gerarchia, che bisognava comunque ci fosse un certo numero di testimoni e nessuno di questi fosse infame, con una deroga. Nei casi di eresia anche un testo infame poteva testimoniare. Ora questo lo sapevano i canonisti e non bastava il Constitutum Silvestri a tutelare sufficientemente, perché si sarebbe potuto dire come in effetti si era già detto all'epoca di Bonizzone che anemine iudicari potest nisi a fide eccetera. E allora tanto valeva prendere un altro pezzo del decreto summa, cucirlo e salvaguardare al 100% anche nel caso di una elezio non canonica. Bonizzone, dicevo, è una spia di tutto questo. Il vero problema è individuato subito nella diversità della posizione del Papa all'interno della società cristiana. Non è senza significato che in fondo questa raccolta abbia il titolo di libro di vita cristiana, e io immagino che tutti quanti voi l'abbiate avuto, è una stranissima collezione fatta di canoni accompagnati da prologhi o da conclusioni di carattere narrativo. Si racconta la storia del mondo, degli eventi, che è un misto tra collezione canonica e narrazione. Nessuno, nemmeno gli studi più recenti, penso a Bertin, Bertin non si è occupato del libro di vita cristiana, ma si è occupato del libro di amici. Ma, dico, rimane questo grosso problema. Lasciamo perdere, noi non dobbiamo spiegare Bonizzone. È sintomatico che subito dopo 475, cioè dopo questo testo, ma voi potete vederlo perché rientra nella pagina, si è inserito un brano di Niccolò I relativo alla circostanza che quod inter apostolos fuit quedam discretio potestas. Non è un caso, secondo me, che questo canone venga messo subito dopo quell'altro. Ribadisce ancora di più la eccezionalità della posizione del Papa. Che la posizione di Bonizzone non dovesse essere solitaria, per così dire, lo dimostra anche la presentazione dello stesso passo di Ennodio Simmaco nella collezione Duorum Drorum. Vi chiedo scusa, io da due giorni ho cercato, io la posseggo, spero di possederla ancora, ma come l'amico Andrea mi sa, molte volte i miei libri scompaiono per poi riapparire nel mio studio all'università. Comunque sono andato a controllare, e forse la rete, perché la collezione di uomini che è stata edita dal Bernard nella revista, così dice un numero d'occhio della revista di Duarte, quindi mio Dio, sarà, doveva esserci già nel 62, sì, sì, tra il 62 e il 66. Così dice il capitolo 48 della Collezio in due libri. E lasciamo perdere la questione, la Collezio in due libri è prima della 64 epistola, dopo, queste sono questioni di cui mi vado convincendo sempre di più, che hanno un'importanza molto relativa. E vediamo un'altra cosa. Quod Romano Pontifici, questo è il titolo della Collezio in due libri. Etsi desint bona acquisita per merito, sufficiunt tamen quea sedis predecessore, prestante, qui addirittura la catena dei meriti è individuata non in Pietro, ma nel sedis predecessore. Vi direte, d'accordo, ma tutti poi fanno capo a Pietro, sì, ma è indicativo che Pietro nei titoli compaia sempre di meno. Diciamo che la collezione dei libri è tra la fine degli anni 80 e i primi degli anni 90. Il tentativo fatto dall'editore di collocarla prima è stato respinto da tutti. Quindi un momento successivo alla comparsa degli scritti del cardinale Benone, che sono dell'81-82, la collezione dei libri dovrebbe essere dopo. E vicino alla collezione di De Uslieris e di Bonizzoni, le esitazioni e le accentuazioni devono essere pertanto attribuite al clima del dibattito sull'argomento. Questo è un risultato di rilievo, perché ci consente di riaffermare il carattere niente affatto conclusivo del dittato Papa XXIII, ma di scoprirne le volute incertezze, e anche le oggettive difficoltà, le polivalenze di significato, la santità del Papa canonicamente ordinata e i benefici dei meriti di Pietro possono spiegarsi, anche per il particolare impegno messo nell'indicazione da parte di Gregorio VI, nell'indicazione della fonte, con la situazione di pericolo oggettivo di dover essere posto sotto accusa dopo la ricusazione che era venuta a Bonn nel gennaio 76. Se siamo d'accordo su questo, noi dobbiamo per forza ammettere che il dittato Papa è posteriore al 1976, cioè posteriore a Bonn. Questa era una delle due tesi che finora sono state dibattute. Il ricorso a un brano solitamente trascurato, quello appunto del Nodio, alla luce di quanto era successo ai tempi di Supri, al tempo di Niccolò II, al tempo di Alessandro II, a proposito di elezioni pontificie contestate, dava un notevole rilievo alla immunità del Papa. Quindi bisognava dirimere immediatamente ogni obiezione con un certo automatismo. Una contestazione sul piano della legittimità del resto poteva non essere gradita a Gregorio VI, il che significherebbe che il De Grande, divenuto Papa, doveva sentirsi sottratto a un controllo della sua azione e cercare una spiegazione plausibile di eventuali rifiuti di giudizio, che doveva giustificare perché non si sarebbe presentato a ogni. All'interno del suo atteggiamento, per quanto sia concesso di individuarlo nel registro, lo strumento più adatto appare appunto quello dell'immunità personale fondata sulla santità, la cui garanzia è data dalla canonicità della legge. E questo è quanto abbiamo visto. Però c'è un'altra cosa che noi non abbiamo visto. Nella lettera ad Ermanno di Metz si ricorda il passo del Nodio, che è chiamato Decreto Sigmati, ma vi ricordate quello che abbiamo notato? Licet experimento sciamus, cioè vi ricordate che Gregorio VI dice sì, il Simmaco ha detto questo, ma noi lo sappiamo anche per nostra esperienza. E vi ricordate che io ho cercato di spiegare quel licet experimento sciamus ricordando che nella stessa lettera poco prima faceva cenno alla storia di innumerevoli papi santi contrapposti ai pochissimi o quasi nessuno degli imperatori di sovranità, santi non erano. Ecco, posso rimandare a 8.21, registro 8.21, se volete vi leggo il testo. Amore di ogni principio, usque ad est nostra tempora in cosa autentica scrittura, non invenimus imperatores vel reges quorum vita adeo fuit religione precipua, et virtute signorum decorata sicut innumerabilis multitudinis seculi contemptori. Vite plure teorum credamus apud omnipotentem Deum misericordia e salute in venisse. Non ci sono papi santi, anche se quelli che poi magari non sono stati santi possono aver trovato salvezza presso la misericordia di Dio. E qui si ricordano alcuni casi. Chi è tra l'imperatore e i sovrani che può essere paragonato a San Martino, ad Antonio, a Benedetto per i miracoli? Sovrani figli come Costantino, Teodosio, Onorio, Carlo e Ludovico non hanno nulla in questo senso. Ora, perché dice tutto questo Gregorio VI? Questo lo aiuta a essere immune? No. Questo però dà al significato di santo una ampiezza che non è solo più di difesa, ma diventa anche, per questo riferimento alla storia passata, per questa interpretazione della storia, diventa aumento del suo peso. Ci stupisce la lettera a Germano di Metz, capitava dopo che ormai la lettura tra Enrico e Gregorio era completa. Vedete quindi come questo concetto di santità, che ha trovato nei canonisti una serie di preoccupazioni di tipo procedurale, trova nella lettera del Manno di Metz una duplicità di valenza, quella della difesa procedurale, immune e stata, e quella però anche di un'affermazione di principio. Noi, sì, noi padri, che abbiamo nella nostra storia una serie di santi, noi possiamo certamente essere santi. Noi abbiamo dalla nostra una esperienza, dice esperimento siamo, che è poi confermata anche dal decreto di Pisa. Ma comunque c'è la storia da parte nostra. Dice, voi imperatori? Niente. Ma andiamo avanti. È come dire che l'ecclesiologia del Papa si completa da una posizione di distinzione, di unità, ad una di superiorità, per il tramite naturale per il Papa, con la divinità, che è preservante, distinguente ed esaltante nello stesso tempo. Insieme a queste preoccupazioni ecclesiologiche ci pare indubbio che il documento più significativo rimanga, nonostante la confusione del suo dettato, appunto il famoso frammento A. Il frammento A, che nella collezione di Deusini, come notissimo, è attribuito a San Bonifacio, ma che è senz'altro improbabile come testo di San Bonifacio, e che è quello che è arrivato fino a Graziano, e quindi da Graziano poi potete immaginare quale diffusione abbia avuto, ma quello è Graziano? Ecco, sì, ma in Graziano, come sapete, non è pervenuto tutto il frammento. Vabbè, comunque sì. E lo trovate nella seconda pagina di 540 caposesto, sì. In che modo frammento A? Nel frammento A io credo che si possano riscontrare le stesse preoccupazioni di carattere escatologico che noi troviamo con riferimento alla serie dei santi papi nella lettera ad Ermanno di Metz. Nel frammento A, in altre parole, io troverei la proiezione del doppio ordine di preoccupazioni di Gregorio VI, quelle di tipo procedurale e quelle di carattere più propriamente ecclesiologico. Ora, prima di esaminare il frammento A che rimanderei al pomeriggio, occorre che io faccia un altro piccolo passo,